43. Riso la cacciatora. Un negoziante di cavalli ed io giovanotto allora ci avviammo a lungo viaggio per quei tempi di una fiera a Rovigo. Alla sera del secondo giorno, un sabato, dopo molte ore di una lunga corsa con un cavallo, il quale sotto le abilissime mani del mio compagno divorava la via, giungemmo stanchi ed affamati alla Polesella. Come naturale, le prime cure furono rivolte al valoroso nostro animale. Poi, entrato nello stanzone terreno, che in molte dissimili locande serve da cucina e da sala da pranzo, «Che c'è da mangiare?» domandò il mio amico allo stessa. «Non c'ho nulla», rispose. Poi, pensandoci un poco, soggiunse. «Ho tirato il collo a diversi polli per domani e potrei fare i risi». «Fate i risi e fateli subito», si rispose, «che l'appetito non manca». Lo stesso si mise all'opera e io lì fermo ed attento a vedere come faceva a improvvisar questi risi. Spezzettò un pollo escludendone la testa e le zampe, poi lo mise in padella quando un soffritto di lardone, aglio e prezzemolo aveva preso colore. Gli aggiunse di poi un pezzo di burro, lo condì con sale e pepe e, allorché il pollo fu rosolato, lo versò in una pentola d'acqua a bollore. Poi vi gettò il riso e, prima di levarlo dal fuoco, gli diede sapore con un buon pugno di parmigiano. Bisognava vedere che immenso piatto di riso ci imbandì dinanzi, ma ne trovammo il fondo, perché esso doveva servire da minestra, da principi e da companatico. Ora, per ricamo ai risi dello stesso di Polesella, è bene il dire che invece del lardone, se non è squisito è di quello roseo, può servire la carne secca tritata fine, che il sugo di pomodoro, la conserva, non ci sta male, e perché il riso leghi bene col pollo, non deve essere troppo cotto, né brodoso.